mio Kabul! Stavai fra Cretenza e gli omni e smirgalotti giravoli. Milan, bolscevico, cambia disco! Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Comunista bolscevico Milan Setung Setung Setung Setung. Sistema, che non siete altro. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, a riprendere una settimana di Uno, nessuno, 100.000. Non ho tenuto più il conto delle settimane decisive per l'abolizione delle province, lo ammetto, lo chiarisco subito, ma devo recuperare. Sfida Luchetti? No, scherzo, ce l'ho qui nel mio telefono, nel calendario, sicuramente potrò recuperare questa settimana decisiva. Allora, 9:09, ci siamo con l'Alpino in regia, con Lorenzo Nespoli, Miriam Luchetti per l'appunto e Elisabetta Fusconi in redazione. Ci siamo anche con l'Entopede, non lo so, l'avete vista girarsi l'Entopede? No? Mi sa che oggi sento profumo di vestaglione. Mi sa che oggi, essendo lunedì, sento profumo di vestaglione. Chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, è lunedì, è una domenica che è andata via liscia, tranquilla, serena. Bella, si zappa l'Inter e poi il gol. No. 2-1, la firma di Milinkovic-Savic. Ma no. Non occupiamoci di calcio minore, caro Alpino. Signori, quello che è andato in scena ieri allo stadio Breda di Sesto San Giovanni è il clou del clou. Non abbiamo l'audio dei gol su Sky? No. La Prosesto! Vittoria nella partita al vertice della classifica. Prosesto Legnano 3-2. Guardi Scapuzzi, guardi. Godo come un riccio. Questa è la verità. Prosesto Legnano 3-2. Ma sfida... chi se ne frega? Oh, io vi ho detto che se vi permettete ancora dall'altra parte del vetro a fare questa facile ironia sulla Prosesto, io mollo tutto, mollo la diretta, vengo di lì e ti gonfio come un otre. Va bene? Alpino, bravo. E lanciatissimi in testa alla classifica, Prosesto Legnano 3-2, sfida al vertice. Ero al Breda con mio figlio Mattia lì a vedere la gloriosa biancoceleste. Avanti, 9-10 minuti. Ci siamo, veleggiamo in alto, inarrestabili. Forza! Enthusiasm about the future. Ecco, più entusiasti di così siamo, più rocciosi di così. Oh ragazzi, dai, 9:11 minuti, tra poco ci sarà il ciclone asiatico che si abbatte qui a Radio 24, il ciclone asiatico di Albertone Forchielli, tra un paio di minuti, adesso lo chiamiamo. Intanto, vabbè, con lui voglio parlare intanto di questa vicenda del coronavirus, perché ci sono degli sviluppi, ci sono delle novità abbastanza importanti, perché per quel che riguarda la politica italiana, ragazzi, poi magari qualcosa a Forchiellone voglio chiederglielo, ma io prima diceva Lorenzo Nespoli, bisognerebbe recuperare il vecchio Roberto Benigni, quando in tutto Benigni pretendeva di risolvere il problema del Medio Oriente tra... insomma le varie fazioni, urlando, mettendosi lì in mezzo perché non se ne può più, urlando ma che c'è? Ecco, bisognerebbe fare la stessa cosa nel governo italiano, cioè che c'è? Gli italiani si chiedono ma cosa avete da litigare come quattro comari imbizzarrite cosa avete? Che cosa avete? Renzi va in Pakistan a sciare e dal Pakistan fa le foto delle montagne innevate dicendo ci aspetta una settimana molto delicata, di scalate, nel senso una settimana governativa. E poi prima se la prende, sentilo qua Renzi. Quello che non pensiamo tu possa dire è che noi siamo opposizione. Tu e Conte. Se noi Conte. Siamo opposizione, voi non avete la maggioranza. Renzi a Conte, ci abbiamo anche Conte che in qualche modo replica, no, meno male, no, ma non meno male nel senso che perché ma veramente, ma che c'è, ma cosa sta succedendo, ma litigano per quattro, ma cose di cui agli italiani non fregano nulla, agli italiani fregherebbe di occuparsi delle cose concrete, vabbè, ma dai, io non lo so. Eccolo qua, il ciclone asiatico che si abbatte qui su Uno Nessuno 100 Milan. Torna Albertone Forchielli, credo sceso dalla bici, spero. Albertone, ciao! Ciao Alino, come stai? Bene, ma dove ti trovi? Sono in un parco naturale dove c'è un lago, sì, a 60 km a nord di Phuket. Sto scendendo da Bangkok in bici. Infatti, ma me la spieghi questa? Allora, dopo un po'... Alberto, dopo un po' nella vita, ha iniziato a dire ora devo fare questa cosa della bici. Io pensavo, cioè tu stai facendo un percorso in bicicletta, in bici, in gruppo immagino, con chi e sì, da sì. Dove? Ah, sono, adesso ho fatto, il mese scorso ho fatto da Bangkok a Chiang Rai, Chiang Rai è l'estremo nord. È lunga. Quanti chilometri sono, Alberto? Niente. È scomparso. Da Bangkok a Chiang Rai gli hanno fatto. Ha detto: sono andato da Bangkok a Chiang Rai, l'hanno ghigliottinato. Non so. E effettivamente è così. Si è messo in mente di fare questi percorsi in bicicletta, in gruppo. È andato da Bangkok a Chiang Rai. Mentre lo chiami, mentre lo richiami, sfida Luchetti, chilometri da Bangkok a Chiang Rai. Ma che tenta, guarda che Lorenzo Nespoli, subito, subito. Eccolo qua, l'abbiamo recuperato. Da Bangkok a Chiang Rai, quanti chilometri sono? Stupende città, li ho visitate. No, sono 800. 800 sia andare a Chiang Rai che venire al sud che andare a Phuket. Ma e come mai fai questo? 1600. Come mai ti sei messo in mente di fare il giro della Thailandia? Mi è venuta la passione, mi è tornata la passione della bici. Stupendo. Come non sono mai bisogna che la faccia dove sono. Stupendo. Bisogna aggregarsi dei gruppi perché sennò le strade non, cioè, bisogna conoscere le strade, bisogna andare per strade secondarie. Quanti siete? Non ce la farei. In quanti siete? Qui siamo, adesso siamo in gruppo di sei, sono con mia moglie, poi un gruppo di altri 6-4 americani. Stupendo. Invece a Chiang Rai sono andato su con dei tedeschi. Mangiavano anche le ortiche, non so. Scusate, invece gli americani sono notori per essere gourmet invece, no? Portava le ma perché no? Non ti si secca, c'è il telefono che non ti si sente, porca miseria, devi stare. Allora, io non lo so dove sei, sarai in uno scenario. Mi descrivi lo scenario che vedi. No, sei tu che sei un gran rascone. Perché mi chiami su delle linee gratis, tu mi chiami, non è la linea della team quella dove mi chiami, di la verità. No, non lo so, io ti ho chiamato. Tu mi chiami su delle linee, sì, ma sono linee. Che vettori usi, capito? Sente male. Ma io non lo so, è il numero che tu mi hai detto di chiamare e noi quello abbiamo fatto. Non so, se tu hai più numeri di un agente del Mossad, usi dei vettori. Non è che. No, ma tu usi degli usi dei vettori gratis, capito? Usi dei WhatsApp, chissà cosa usi. No. Vabbè, Albertone Forchielli, senti, io ti voglio fare questa domanda sulla questione della Cina. Ma hai visto che adesso si è scoperto che dal 7 gennaio il presidente cinese sapeva del coronavirus? Ma sai che secondo me molti dicono che in realtà la Cina non è stata così scarsa nella reazione, anzi è stata abbastanza pronta, no? Allora, sono stati bravi o no? No, è stata monumentale. No, è stata monumentale la reazione, cordonare 60 milioni di persone, mettere in quarantena 1.300 miliardi è un'opera. È un'opera colossale, però sono partiti bene in ritardo. Ecco. Cioè, capito? Se questi lo sapevano il 7 gennaio, ma cazzo, per Capodanno cinese, che era il 25, hanno fatto partire 1 miliardo di persone, hanno infettato l'ira di Dio. Cioè, se è veramente è chiarito che anche Pechino sapeva del 7, lo sapeva in anticipo. Vabbè, ma loro non c'era da bloccare il Capodanno cinese, perché il Capodanno cinese è successo l'ira di Dio. Sono partiti tutti, capito? Quindi sono stati bravi a cordonare, ma hanno fatto tardi, hanno fatto scappare i buoi, hanno fatto scappare i buoi dalla strada. Sì. Ma lo sai che il governo è in difficoltà? Cioè, il partito è in difficoltà, perché è molto criticato. Dopo che è morto, per esempio, quel medico che ha denunciato, ci sono state tante critiche. Sì, ma adesso cercano di sopprimere, però dicono che il governo non è all'altezza, questo nuovo governo è un governo che preme solamente la fedeltà politica, ha messo persone incompetenti ai loro posti, solamente dei blu politici che obbediscono solo a... non sono stati efficienti. Sembra che negli approvvigionamenti di mascherine, tutti strumenti medici, cose del genere, sembra che ci sia stato un profiteering, una azzanna quello che puoi, capito? A proposito di mascherine, non so se hai visto la foto, perché in Cina i simboli sono molto importanti, ma c'è questa foto del presidente Xi Jinping che tiene una riunione ufficiale e tutti sono in mascherina, lui per primo, tutti in mascherina. Cosa vuol dire questo? È un segnale, come dire, mettetela tutti. Sì, mettetela tutti, ce l'abbiamo anche noi, la situazione è molto seria, però ti dico, la situazione è seria, però con un certo ritardo. Senti Alberto, devi far capire qui agli ascoltatori di Radio 24 come saranno i riflessi dell'economia mondiale e italiana sulla questione coronavirus, perché dei riflessi ci sono e ci saranno. Ma guarda, sul turismo noi pigliamo una batosta mica da ridere, perché non è che il turismo cinese picchia e non è che i turisti adesso cinesi che hanno fatto mese di quarantena appena tornano a viaggiare, devono tornare a lavorare, capito? Per cui il turismo, la botta c'è e la sentiamo per tutto l'anno. Il lusso, che è molto legato al turismo, perché i cinesi comprano molto mentre viaggiano, quindi il lusso prende una botta e non la recupera entro l'anno. Il resto dell'economia, avremo una brutta prima metà dell'anno dove faremo una crescita negativa, poi dopo mi aspetto che, se si mette a posto questa epidemia, la seconda parte dell'anno andrà molto meglio. Quindi non è il massimo. L'anno non sarà una tragedia. Però no, sì, certo, noi che siamo gracilini, no, che abbiamo sempre queste crescite dello 0.2, facciamo presto a farci male, no? Sai che, per esempio, ci sono molte persone che dicono, ecco, è una sorta, quelli che addirittura dicono, una sorta di punizione, perché avete delocalizzato, vi siete appoggiati alle manifatture cinesi a basso costo, adesso pagate. Ma davvero siamo appoggiati alle manifatture cinesi a basso costo? Beh, abbastanza. Adesso noi no, adesso come paese noi, devo dire, il mondo sì. Noi abbiamo delocalizzato molto in Est Europa, non è che la Cina sia bestiale per noi, come per il nostro modello industriale, non è che la Cina, le delocalizzazioni in Cina siano state molto molto profonde, così pervasive, però il mondo sì, e difatti il mondo si interroga, prima visto tutte le inculate che hanno preso dei cinesi per andare in Cina, capito? Per cui, capito, uno che è sopravvissuto, tre sono morti. Poi hanno visto i dazi, adesso vedono le epidemie, che non è la prima ma è la terza, a un certo punto poi la gente dice adesso puoi andare in Cina, è un po' troppo in là, la Cina non è così salubre come si pensava, anche perché il mondo, sì, il mondo ormai sta andando verso il just in time, ossia la Cina ti dà il basso costo quando te lo sempre meno, però sì, c'hai sempre 20 giorni di spedizione, di trasporto, c'hai 20, 30, 40 giorni, no? Mm. Però il mondo adesso richiede la customization, cioè prodotti fatti su misura, prodotti su ordine, capito? Consegna rapida. Quindi non, va, non è neanche più così, non è neanche più così conveniente adesso puntare. No, non è neanche più così. Ormai d'ora in avanti in Cina la gente ci andrà a produrre per vendere in Cina, punto. Anche però se ricor- andare in Cina... Sì, Sì. No, no, anche se ricordiamo, no, perché prima hai detto quella parolina, tutte le gli scarsi affari che la gente ha preso in Cina, ricordiamo il vecchio mantra di Forchielli, per cui in Cina tutto inizia con un brindisi, tutto inizia con un brindisi. Finisce con un'inculata. Eccolo lì, va bene. Sì, ci saranno 2,000 o 3,000 aziende italiane che operano in Cina, ma ce ne saranno almeno 10,000 che ci hanno provato e sono tornate con le ossa rotte, sì. Questo è. Vedi, adesso mi fai litigare con gli ascoltatori. Un ascoltatore ci scrive dalla Germania e dice: fastidioso, Forchielli va in bicicletta e sputa sentenze sui tedeschi che mangiano merda secca. Va bene. Ale. Ragazzi, sputa sentenze, l'ho vissuta. No, poi, esatto, Albertone vive anche a Francoforte, parte dell'anno lo passa anche a Francoforte, quindi però insomma sono suscettibili, il nostro ascoltatore che è italiano si sì, sente... hanno una barra, hanno una barra, la loro barra di quello che è buono come cibo è bassa, capito? È bassa, rispetto a noi, bassa. Quindi quando sei una comitiva di tedeschi ti tocca dei quarti, però... Questo è. Massimo, Però Alberto, giusto per chiudere la questione della Cina, era quest'anno, pochi mesi fa, tutta la vicenda della famosa La Via della Seta, no? Ti ricordi tutti gli accordi commerciali? Tu eri stato molto critico. La Via della Sega, non è successo niente. Le nostre esportazioni in Cina sono a pezzi, saranno in calo del 7-8%, è il mercato che ci va peggio, ma questo prima del coronavirus, ok? Quindi figurarsi... La Via della Seta non ha portato nessun contratto significativo, sì, non ha portato nessun giovamento alle nostre esportazioni, è stato solamente una vetrina delle vanità di Cina e compagnia che di concreto al paese non ha portato niente, ci ha fatto fare una figuretta dei primi volta a Gabbana. Vabbè, questo l'avevi già detto, cioè i Volta Gabbana rispetto al mondo, rispetto all'America, rispetto all'Europa. Ma sì. In questo momento qui andare a genufletterci per aderire formalmente alla Via della Seta senza portare a casa nessun beneficio è veramente un miracolo della inettitudine italiana. Vabbè Alberto, quindi qui ti devo far fare un commento. Io sono un po' imbarazzato. Io non so se tu in bicicletta, mentre vai in bicicletta con gli americani e con i tedeschi, senti anche con un orecchio quello che succede alla politica italiana, ma ti informo che insomma abbiamo scampato l'ennesima crisi. L'ennesimo litigio. Ma come dicevi te, ma noi ci abbiamo proprio nel DNA questa profiosità, questa litigiosità. E poi sai cos'è? Che in un altro paese far cadere un governo è una nota di demerito, no? Sì. Cioè quando tu fai cadere un governo, cioè, ci pensi un attimo, perché capito? Perché paghi. La gente non è mai contenta che cada un governo. Capito? Invece noi, facendo di media un governo all'anno per gli ultimi 70 anni, non c'è nessuna penalty per far cadere un governo. Capito? Anzi. Per cui immediatamente chi si trova in una posizione di minimo ricatto, che voglia un minimo di visibilità, immediatamente si mette ma questo vale per qualunque tipo di governo, sai, non senza neanche dare un giudizio al governo. No, ma guarda, la parola giusta che hai detto è giusta, ricatto, cioè l'Italia è fatta in un modo per cui se hai lo spiraglio per poter ricattare per motivi personali, di potere, di conquista, qualcosa, lo fai, basta, questo. Hai visto che hanno citato anche... hanno citato i cinesi. Renzi, che peraltro è in Pakistan, non ho capito a fare cosa, dice che è paziente, come ha citato Confucio, ha citato Confucio, ha detto che a un certo punto anche com'è, cos'è che ha detto di Confucio, mamma mia, devo anche la pazienza e potenza, il gelso diventerà seta. E Bettini ha citato Mao, ha detto che è una tigre di carta, Renzi. Tigre di carta. Sì. Vabbè. Cosa vuoi che ti dica, poveretto, ormai era abituato, aveva percentuale di due cifre fino a 2-3 anni fa, adesso non si sa se riesca a fare il 4%. Poveretto, fa anche pena, no? Adesso, è lì che si dibatte nella melma del margine di sbarramento. Se col nuovo Germanico ci sarà uno sbarramento al 5%, non so mica se ce la fa lui. E vabbè, ma quindi c'è. Che dobbiamo aspettarci adesso? Tu che la guardi distrattamente, no, questa politica italiana? Un po' di risse, un po' di solite questioni. Un po' di risse, ma poi secondo me è tale tanta la paura di andare a casa per i parlamentari attuali, no? Tutti eccetto quelli della Lega che stanno di aumentare, che la paura fanno avanti in Italia. Secondo me di elezioni non se ne parla. Non se ne parla. Proveranno il modo di sistemarla. Si parla di come dire, Conte-ter, sostituzione di Conte, cioè questi giochetti, questi magheggi soliti. Si parla anche che ci sia Draghi pronto con la sua squadra. Draghi, addirittura. Ma a te piacerebbe? Che dici? Ti piacerebbe? Sì, ma sono talmente pessimista che non credo che Draghi riuscirebbe a convincere gli italiani a fare le cose importanti da fare. Il pessimismo di Forchielli, che intanto pedala per la Thailandia. Stupendo, ma come fai? Poi arrivi a Phuket. Pedalo per dimenticare anche. Adesso, per dimenticare cosa? No, ho capito. Per dimenticare la tragedia del nostro paese. Verso gli inferi. Verso gli inferi. Intanto lui pedala in Thailandia con gli americani e i tedeschi, e intanto noi andiamo verso gli inferi. Tu sei bello in sella che vai verso Phuket, questa è la verità, insomma. Albertone, noi ti dobbiamo salutare. Quando è che torni qui a trovarci? Chi lo sa? Ah no, presto, perché con la storia del coronavirus non posso andare da nessuna parte. Sono bloccato a Bangkok, perché a Singapore è bloccata, Hong Kong è bloccata, in Cina non si entra. Dove vuoi che vada? Torno a casa. Il 4 marzo sono a casa. Il 4 marzo. In redazione. Va bene, il ciclone. In marzo vengo in redazione, vengo a spazzolare la redazione. Vengo a fare danni. Ti passo tutti in rassegna, capito? Voglio tutti sulla tempi. Ovviamente come torni con Alitalia? Torni con Alitalia? No, io quando vedo l'Italia mi tocchi i maroni, lo sai, no? Torno con Emirates, che vola diretto su Bologna, quindi mi trovo molto bene. Stupendo. E col volo Dubai-Bologna mi trovo molto bene. Bene. Ciao Albertone, pedala, ci troviamo presto. Ringrazio Alberto Forchielli che, insomma, dalle parti da 60 km da Phuket, mentre sta pedalando, si è collegato con noi. Va bene, dai, andiamo un attimo. Mentre non vedo Leonardo Manera, è ufficiale? Si sente profumo di vestaglione. Allora, a questo proposito, la politica italiana, io lo voglio fare, perché spesso lo sapete che noi vorremmo entrare in Parlamento, appoggiare lì un premio Giachetti. Ecco, in questo caso, in questa politica italiana tutta un po' litigiosa, invito anche voi, cari ascoltatori, a dire: ma voi a chi dareste il premione Giachetti? Ditecelo al 349-238-6666 oppure chiamateci all'800-24-0024. Ma il premio Giachetti al singolare, voi a chi lo dareste? Ecco, intanto noi lo proclamiamo. Hai la faccia come il culo. Abbiamo messo lì, in un luogo simbolico nel centro di Roma, dove insomma c'è il cuore della politica italiana per questi ennesimi litigi, ennesime baruffe chiozzotte. Lo abbiamo posizionato sul selciato, secondo voi, a chi dovrebbe passare a raccattarlo? Ditecelo. Intanto un attimo di pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh Milan, ma sto forchiello qua, non lo chiamare più, mica ci stai descrivendo la fine del mondo, l'apocalisse, l'Armageddon, questo scienziato qua. Ciao Milan, a parte che c'hai un nome orribile. E ascolta, ma cosa lo chiami a fare questo ganassa qui che è dall'altra parte del mondo? Ma chiama qualcuno a Cinisello, così parliamo di cose serie. Milan, buongiorno, buongiorno a tutti gli autoascoltatori. Siamo a Novosibirsk, Novosibirsk, Siberia, Russia. Sono le 15:20, le 15:10 e ora capisco perché il nostro Milan tiene sempre l'inno russo, perché lui ama la Russia, perché in Russia si sta meglio che in Italia. E questa è la verità. Le strade adesso in Russia sono bellissime. Ma che c'ha questo? Le buche ci sono, dipende dalle zone. Sì. Ma la gente non ti rompe i coglioni. Ciao, buona giornata. Grande, grande. Allora, ascoltatore, grande ascoltatore. Bene, sono le 9:38 minuti. Allora, qui vi sbizzarrite sul premio Giachetti, ma dovete chiamarci. Basta questa asettica comunicazione con un messaggino. Chiamateci all'800 24 0024. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ligio al dovere. Manera. Ligio al dovere, come tutti i giorni sono presente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Leonardo Manera. Eccoci qua. Sì. Buongiorno. Dove devo dire, dov'è? Buongiorno, io sarei venuto volentieri in studio come oggi. Sei vestito? Era il mio oggi, vero desiderio, sì. Ma mi sono attenuto alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ah, attenzione, cioè? La quale dice che bisogna sviluppare anche a causa del virus o virus, come dice virus. Il signor Di Maio, bisogna sviluppare il telelavoro, e quindi io mi adeguo ligio alle indicazioni di chi sta sopra di me, quindi sono lodevole in questo mio atteggiamento, credo. Il virus, va bene, insomma avete capito, Leonardo Manera oggi è in vestagliona. No, potremmo dare a lui il premio Giachetti. Rimandamelo Alpino, ho già deciso di chi è il premio Giachetti. Hai la faccia come il culo. Non è vero, oggi non sono in vestagliona. Non sono in vestagliona perché sono andato nudo a bere un caffè al bar Jimmy. Quindi sono uscito, poi sono rientrato. Ma Jimmy, il signor Jimmy è preoccupato, ecco, do questa notizia, sì? È molto perché? Preoccupato. Perché nella porta accanto, proprio attaccato a lui, sta per aprire un nuovo bar, pub, giusto, molto più grande e molto più, insomma, fornito a quanto pare. E lui teme di perdere completamente il lavoro, vedi che è un problema. Si chiama libera concorrenza. Sì, ma non vai ad aprire un bar attaccato proprio a un altro bar. Perché no? Me. Bersani ha liberalizzato, puoi fare quello che vuoi, trovo anche giusto e via, insomma. Allora dico, questi pochi giorni in cui ancora questo altro locale non è aperto, sostenete il bar Jimmy, andate a bere un caffè da lui, in modo che poi quando dovrà chiudere avrà messo da parte un gruzzoletto, ecco. Bene, bene, ma perché dovrà chiudere? Ma chi l'ha già detto? Perché? Ma si aggiorni Jimmy, cioè ma che ci deve aggiornare, non ha neanche l'insegna, non può fare nulla. Beh, cominci dall'insegna. Non ha nemmeno l'insegna. Si trova accanto un bar molto più fornito, elegante. Niente, non c'è storia. Il bar Jimmy dicevi, è già perso. Come dicevi è come tu, la provinciale che gioca contro il Real Madrid, la squadra molto più forte. A volte succede, come dicevi tu ai bei tempi, metta dei gran bei stuzzichini. Il buon bar Jimmy, metta. Lo fa già all'ora dell'aperitivo. Ma sono stuzzichini sempre minori, non sono quelli belli che mangiano volentieri. Ma spenda in materie prime, Jimmy, spenda. Ma qualche... se non può mettere l'insegna il signor Jimmy, che stuzzichini deve fare? Sostenetelo prima che chiuda e che tiri giù la saracinesca. Niente, mamma mia, mi sa che Jimmy deve chiudere questa. Però questa Forchielli è un po' catastrofista. È molto catastrofista. Sono arrivati tantissimi messaggi di gente che lo odia. Dice, sta in bicicletta bicicletta e ci dice che sta arrivando l'apocalisse, l'inferno. Ma lui secondo me è un po' scherza, anche scherza così. Vabbè. Senti qua, caro Leonardo, senti, ci sono degli ascoltatori, anzi ascoltatrici, mi fa molto piacere. Daniela da Padova, eccoci. Daniela, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Che ci dice? Chi è il politico peggiore che dovrebbe raccattare il premio? Non lo so, sì, se sì. Vuole, sì, certo, sì, il premio, sì. Il premio sì. Giacchetti. Renzi. Perché guardando in retrospettiva, dalla ruota della fortuna in avanti fino a oggi e forse anche in futuro, ha solo necessità di protagonismo, ecco, di essere protagonista. Quindi della scena politica. Lei a Renzi lo darebbe. Sì. È una critica che fanno... Che fanno molti, cioè dai tempi in cui aveva il 40% e adesso invece è un po' in disarmo dal punto di vista politico e quindi cerca un po' una vetrina. Bene, va bene, lo dà Renzi. Bello che l'Alpino mette sotto la base del premio Giacchetti. Tu, Leonardo, vuoi dare un tuo premio Giacchetti? Così? A un politico in particolare? Ma no, ma puoi darlo anche a te stesso, per esempio, per il fatto... A chi vuoi? Se vuoi a un politico. Ci penso per tutta la puntata e domani ti dico. Va bene. Ok. Ho dormito fino a poco fa, non è che posso svegliarmi con in testa il premio Giacchetti. Giusto. Isa, dalla provincia di Piacenza. Eccomi. Sì. Prego. Io il premio Giacchetti, come ho detto alla signorina che mi ha risposto, lo darei a Morgan. Perché a Morgan. Sono una persona che guarda poco la televisione, ma non l'ho mai visto come adesso da quando ha fatto quella paraci puntini a Sanremo. Ma certo, l'ha fatta apposta, cara Isa, l'ha fatta apposta perché adesso a bei cachet si presenta in TV promettendo a ogni comparsata televisiva di dire la verità sul litigio con Bugo. Ragazzi, ma è un grande show. Quindi vado dalla D'Urso, 30.000 euro, bam! Vado da questi, vi do l'esclusiva, 20.000 euro, bam! D'altronde deve ricomprarsi una casa, immagino. No? A volte queste lamentele mi sembrano superflue, nel senso che poi la televisione è spettacolo. Sì. Quindi il 90% di quello che c'è in televisione è una forma di spettacolo, quindi non vera. Però in questo caso, Leonardo, c'è effettivamente, adesso non lo so, ma forse una strategia a dire creo un qualcosa per cui mi pagano, mi chiamano a pagamento, perché si sa che è quello che dico. Anch'io è spettacolo, è una forma di spettacolo più costruito, insomma, no? Ecco. Ma infatti, buon per lui. L'importante è che dichiari al fisco quello che prende, tutto qua, e poi dopo il resto è tutto a posto. Quindi, Isa, hai capito? Siamo passati da Renzi a Morgan. È sempre spettacolo. No, c'è grande differenza. No. Va infotainment, bene. Spettacolo, così. Leonardo, avevo due notizie da sottoporti. La prima è questa: c'è una lamentela di una categoria di persone che dice lavoriamo troppo e abbiamo stipendi troppo bassi, a volte anche 16 ore al giorno, è un qualcosa che non va bene, dobbiamo metterci insieme come categoria. Il Quotidiano Nazionale ha dedicato due pagine con tanto di interviste a una rappresentante di questa categoria che dice basta, non ce la facciamo più, lavoriamo troppo. Chi sono? Chi sono? Le suore. Non ne ho... Le suore. Troppo lavoro e stipendi bassi. Diamo un abbraccio a tutte le sorelle, suore. Anche le suore chiedono diritti. C'è un'intervista, per esempio, al racconto di una suora che si alza alle 6 e serve l'ultimo pasto alle 20:30 in una casa del clero. E si chiede qual è la nostra missione e anche un po' qual è il nostro stipendio a fronte di tutte queste ore di lavoro. Mi sembra che insomma l'obiettivo principale non sia molto presente, no? Uno lo fa come forma di dedizione a Dio, dovrebbe. Quello dovrebbe essere chi fa la sua l'obiettivo principale. Sì, dedizione a Dio. Io capisco, sono d'accordo con loro. Non però a servire i pasti ai preti dalle 6 del mattino alle 20:30, appunto la dedizione a Dio. Infatti io sono d'accordo con loro, io sono dalla parte delle suore. Facciamo venire una suora in studio, se tu sei d'accordo. Va bene. E ci parla un po' di queste rivendicazioni. Rivendicazioni sindacali, chissà se hanno un sindacato le suore. La seconda notizia che ti vorrei sottoporre, e poi dopo andiamo al traffico, è questa. La vita quindi c'è sessismo nell'ambiente delle suore, perché sono loro che devono servire i pasti e i preti. Effettivamente, cioè, il prete sta lì, si mette al tavolo con allora, suora, cosa c'è stasera da mangiare, suora? Suora, sì, cosa hai preparato oggi per il nostro desco, per i nostri piatti? Che avviene, cosa mangiamo, avviene suora? Un po' così, la donna in cucina a preparare e l'uomo coi piedi sotto il tavolo, credo che... questo funziona. Andrebbe veramente chiaro, sarebbe interessante capire come funziona la vita di suora e preti, se la suora è così obbligata. L'altra notizia è questa: la vita da single è un lusso. Attenzione, scrive Libero, secondo una statistica, studio da Coldiretti, la vita per i single costa in media il 78% in più rispetto alla vita in un nucleo familiare composto da tre persone. È vero, io sono single praticamente, quindi... E quindi posso confermare. Puoi confermarlo. Ma tu non spendi neanche più in metropolitana, visto che te ne stai a casa. Vabbè, dai, andiamo a sentire il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Libera concorrenza. Provate a mettere uno studio notarile accanto a quell'altro. Manera, comincia a prendere una brioche intera invece che mezza tutte le mattine. Io il bar Jimmy l'ho cercato ma non l'ho trovato, quindi mi sa che non si vede tanto. Questo è il grande tema, vedi? Se vedi, perde anche dei clienti. Se fosse lungimirante a mettere una insegna, ammortizzerebbe nel tempo, si chiama investimento, con un aumento del 3-4-5% della clientela. Niente, ma adesso sarà più facile tutto. Trovarlo perché diranno è quello accanto a quello bello. Diranno che... cioè, comunque io volevo far notare sì sì. Quando avremo, quando avremo il nome del Barbello, lo diciamo alla affia, diciamo il Barbello, chiamiamolo anzi così, Barbello, Barbello. A fianco trovi il Bar Jimmy. Voglio dire all'ascoltatore che io, è vero che mangio mezzo brioche, ma la pago tutta, cioè non è che ne pago mezza, non è che pago 50 centesimi, la lascio lì di solito per chi volesse poi approfittarne dopo. Però mi interessava anche molto anche il messaggio prima, quello della liberalizzazione dei notai. Il grande amico dei notai, Leonardo Manera, adesso vi spiega come... No, non è che lo dico io, tutti sanno che quello dei notai ormai è un lavoro un po' di casta, no? Perché in tanti altri, io credo, è vero, in tanti altri paesi sono lavori. Sono lavori quelli del notaio che vengono svolti dal segretario comunale, da impiegati comunali. Sì, non esistono in tanti altri paesi. Non esistono i notai, è un privilegio di casta che è rimasto, non si sa bene perché, o meglio lo si sa perché l'Italia è un paese corporativo di fondo. Salutiamo tutti gli amici notai, ma anche tutti gli amici commercialisti, tutti gli amici avvocati, anche ma i comici, è il paese anche da sempre, i comici, anche la famosa casta dei comici. Ma esiste anche quella, tra l'altro, ma comunque dal fascismo in avanti l'Italia è un paese corporativo, quindi per forza i notai hanno dei gran privilegi. Cosa stavi dicendo della brioche, mezza brioche? Che la pago per intero, la lascio lì poi per chi fosse interessato, anche perché ormai le brioche le fanno ancora troppo grandi. Questa è una bella battaglia, secondo me, che dovremmo sviluppare. Le brioche grandi. Sì, perché ormai si fanno le brioche come negli anni 50 ancora, ma nessuno ormai mangia in quel modo come negli anni 50. Ma ci sono le mini brioche, ormai tutte le quasi, al Bar Jimmy sicuramente no, ma ci sono praticamente in tutti i bar le mini brioche, le brioche mignon. Non è vero, ci sono in pochi bar le mignon fatte bene, sono come una cosa, un materiale di scarto, vengono fatte come, non ci crediamo nella mignon, invece no. Tutti i bar dovrebbero averla, il Bar Jimmy ce l'ha, ma è molto più cattiva la mignon di quella normale. Vabbè. Anche perché poi quelle normali hanno tutte le farciture, cioè la crema, i frutti di bosco, le mignon vegana vuota, no, c'è la mignon vuota. Basta. Quella lì. Fatta male. Male. Di scarto. Vabbè, vai. Di scarto. Allora, oggi nella seconda parte della puntata avremo ospite Lorena Bisighini, giusto? Giusto, Ale? La voce. Annunciatrice e voce dell'azienda Trasporti Milanesi. Venerdì scorso, il giorno di San Valentino, tutti quelli che hanno preso la metropolitana a Milano sono rimasti colpiti dalla sua voce, che invece di preannunciare in modo asettico le fermate successive ha fatto gli auguri a tutti gli innamorati con un tono di voce diverso dal solito, più empatico. Forse per voler umanizzare quel luogo terribile che è la metropolitana, dove di solito nessuno sorride e tutti sono concentrati sul proprio telefono. Solo di tanto in tanto i vagoni della metropolitana si animano e si riempiono di vita quando entra qualche chiassosa scolaresca. In questo caso le reazioni degli altri viaggiatori sono prima di sorpresa, poi subito dopo di disappunto, perché i bambini che entrano gridano, scherzano, giocano, disturbano i viaggiatori che, giustamente, tra l'altro, considerano la metropolitana un limbo tra la vita superiore e una specie di oppressione catacombale in cui silenzio e cupezza la fanno da padrone. La metropolitana, mezzo di trasporto fondamentale, peraltro, è un concentrato di situazioni negative. Ci si trova quasi sempre, nell'ora di punta, stipati in un insufficiente spazio vitale, a stretto contatto con persone che non hai mai visto prima in vita tua, le quali spesso emanano odori non proprio gradevoli. Ma il contatto con queste persone è di gran lunga superiore a quello che hai quotidianamente con tua moglie o con tuo marito, almeno per la vicinanza. Per non cadere devi reggerti alle apposite barre di sostegno, alle quali evidentemente si è appoggiato qualcun altro prima di te, forse portatore di qualche virus. Qualcuno starnutisce d'inverno, altri d'estate sudano se i vagoni non sono ancora dotati di aria condizionata. Se invece l'aria condizionata c'è, si rischia la bronchite per gli sbalzi termici. Poi ci sono gli ansiosi che chiedono di continuo scende alla prossima, quelli che usano gli zaini come arma contundente, quelli che fanno salire cani che occupano un paio di posti, gli anziani che ti guardano male se non cedi loro il posto e gli anziani che si offendono se cedi loro il posto, quelli che, se casualmente e fortunatamente trovi un posto a sedere, si mettono in piedi a un centimetro da te obbligandoti a uno stretto e non voluto contatto, almeno visivo, coi loro genitali. Insomma, la metropolitana è uno dei luoghi peggiori ove ci si possa trovare, un'anticipazione di qualche girone infernale. È una parte di morte nella vita terrena, sopportabile solo perché si sa che dopo non molto si tornerà a vedere la luce. Ma l'altro giorno la voce di Lorena Bisighini ha aperto uno squarcio in questo girone infernale, il girone degli ora puntari, di quelli che si muovono nell'ora di punta. Ci ha fatto capire, come dice Italo Calvino nelle Città Invisibili, che anche nella vita più complicata può esserci qualcosa di bello e di buono per rendere meno pesante il vivere. Vai, Lorena Bisighini continua così, non annunciare solo le fermate, Moscova, Lanza, Cadorna, mandaci un bacio, una carezza. Dici un motto di spirito oppure annuncia le fermate con la stessa enfasi con cui Germano Lanzoni a San Siro annuncia i giocatori del Milan. Potresti dire: benvenuti nella casa dei viaggiatori, sulla linea rossa e verde Loreto, sulla linea rossa e gialla Duomo, sulla linea verde Lilla Garibaldi. Ecco, dacci un motivo di orgoglio per stare lì, cominceremo la giornata con un umore diverso, migliore. In fondo a noi ora puntari basta poco per darci uno spunto mattutino. E dietro alla voce suadente di Lorena Bisighini vedremo una vita più soffice, un sorriso familiare e la promessa di un focolare domestico. E la fermata gioia non sarà più una semplice fermata della metropolitana, ma forse anche un luogo dell'anima. Bello, caro Leo, ma sai che mi hai dato un'idea? Adesso quando avremo ospite nella seconda ora appunto Lorena Bisighini, dai, potremmo farle fare qualche annuncio di questi. Sì, certo, lo teniamo e poi lo mandiamo ogni tanto. Tu potresti anche fare un'altra bella cosa, caro Leonardo, nella seconda ora di trasmissione. Ma perché comodamente, lentopedamente, tranquillamente non ti sposti al Bar Jimmy? So già cosa mi vuoi chiedere, non me la sento, lo sapevo, dai, guarda che andavi a parare lì. Ma dai, ma Fiorello problema, ci no? ha fatto un format, no? Ma su... C'è un problema, c'è no, un ti problema. Spiego qual è il problema. Chiuso. Ha già chiuso. No, tra due o tre giorni. No, il problema è che io questa con l'app devo mettere le cuffie e signor Jimmy non come facciamo a dividerci le cuffie e a parlare direttamente? È complicato. Ma lascia stare una cuffia a te, ma poi di fai... Ma no, vabbè, ma intanto vai dal Bar Jimmy, intanto la gente entra, chiedi cosa vuole lei, un cappuccio, Jimmy un cappuccio, fai un... Dai, regalaci questa cosa dalle 10:30, va bene? Affare fatto. Adesso vedo. Poi arriva Lorena Bisighini, non ragazzi, lo so, non ho voglia di rivestirmi. Che fastidio, dai, di rivestirmi. Magari lo faccio un altro giorno con più calma. Culo poi pesante. Giornale radio. 1 nessuno, 100 Milan. Manera, il bar, chiamalo, anzi digli di chiamarlo il bar accanto, così comunque vada sarà un successo. Milan, parla un attimo con Boccia, facciamo questa colletta, così mettiamo l'insegna Jimmy Manero. La suora in studio, magari l'ex fidanzata di Manera, quella pugliese desaparecida. Dai, dai, dai! Effettivamente. Vabbè. Inizia così. Questa musica amara mi fa ripensare a quell'episodio di questa ragazza che mi conobbe e poco dopo avermi conosciuto preferì diventare monaca di clausura. È andata così, chissà se lo è ancora. È andata così, sì, sicura, ma secondo me non lo è mai stata. Lo ha detto per. È una delle scuse più geniali per troncare un rapporto. Sì. Può essere. Io le ho creduto perché io credo sempre alle donne, per questo che nella vita ho sempre sofferto. Eccolo lì. Perché ho sempre creduto a tutto quello che mi hanno detto. Va bene, accogliamo con questa amarezza Maria Paola dalla provincia di Milano. No, Milano, che provincia di Milano? Vabbè, Milano. Milanese doc. Sono la signora di Città Studi, che però il bar Giannino è troppo lontano. No, Giannino, Gimmi, il bar Gimmi. Io sono vicino alla vecchia Milano, dove c'era Iannacci, Guido Viola. Sa, io sono nell'alta società. Ragazzi, mica noi che, per esempio, come definirebbe Leonardo Manera che abita in Piazza Udine, da quale parte? Sì, insomma, non commento. Comunque è talmente bravo che può abitare anche a Corsico, a San Donato Milanese. Voi siete tutti invidiosi, è talmente bravo che le studiate tutte per metterlo in difficoltà, ma non c'è niente da questo fare. È vero, signora. Ma lui è così, lui dà il meglio. Adesso dico una malignità, io prego. Iachetti lo do ai tifosi Giacchetti, della Lazio, che ieri sera, pur avendo tutti questi che giravano sopra, li tenevano d'occhio, bastava che uno dicesse Duce, che alzasse un dito, magari portarlo al naso. Ecco, oggi a reti unificate sarebbe stata la fine del mondo. Cioè, lei dice cosa è successo? C'era Manera? No, ma non ho capito. I tifosi della Lazio. Ma Maria Paola, non ho capito perché hanno inneggiato al Duce? No, ma sono stati furbi, se no li avrebbero fatti fuori. Come hanno fatto tacere? Io ho pensato che Manera, magari sotto con un cappellone, è andato a dargli una dritta perché è una persona molto per bene. Sì. Era giusto che ieri sera all'Inter le prendesse. Ho notato che non ne avete parlato stamattina. Non ne abbiamo parlato. Ma vabbè. Ma povera Inter, insomma, è stato ristabilito nel giusto adesso albero. Sono terzi, ma ho già avuto abbastanza punizioni. Maria Paola comunque darebbe. Maria Paola comunque, mai da Corsico, mai da Piazza Udine, ma dalla società bene di Milano. Sarà un'amica della nostra Elisabetta Fusconi. Comunque volevo dire alla signora che è il premio Giacchetti, non il premio Iachetti, come ha detto lei. Vabbè, Giacchetti. Andiamo in provincia, spero, di Modena, da Pietro. Provincia o Modena? Modena City, Modena... Buongiorno, provincia. Va bene, Pietro. anche se insomma abito a Carpi, che è proprio una cittadina anch'essa, però provincia. Che ci deve dire? Ah, guardi, io ho una candidata perfetta per il premio Giacchetti, penso che proprio meglio di così, adesso come glielo spiego mi darete anche ragione, dell'onorevole Anna Ascani. E che ha fatto? Che non è particolarmente nota, però l'anno scorso, ecco, giusto manca a farlo apposta, era a fare le primarie proprio con lo stesso Giacchetti. Per questo, vabbè, ho capito, ma no, il premio Giacchetti. E sparava a zero sui 5 Stelle, sparava a zero sul giustizialismo, sparava a zero sui decreti sicurezza e cose del genere. Come è giusto d'altra parte, per la mia personale opinione faceva benissimo. Adesso che è cambiato il governo le hanno dato un posto, non so, penso di sottosegretario, e sparo a zero su Renzi. Quindi dice proprio ha cambiato un po' di opinione, va bene. Ma vede, siccome come dice la rete non dimentica, no? Allora, come io l'anno scorso la seguivo, non passa giorno che Facebook, lo sapete come funziona Facebook, un anno fa ho fatto questo, un anno benissimo, a me regolarmente mi arrivano questi messaggi. Ricordiamo però sempre la frase celebre dell'ex ministro, anche Rotondi, che diceva sempre: la dichiarazione di un politico vale solo per il momento in cui la fa. No? Il giorno dopo. Io vorrei chiedere all'ascoltatore perché vuole farsi del male seguendo tutti i giorni su Facebook le dichiarazioni dell'onorevole Ascani. Infatti non me lo faccio più, mi sono vaccinato. Sei vaccinato. e basta un click. Segua gli spettacoli di Leonardo Manera, che sono molto più divertenti. A Carpi, attenzione, è stato il luogo dove io ho avuto più spettatori in assoluto nella mia vita. Correva l'anno 2004, bello, 2003, non ricordo esattamente, si faceva una manifestazione alla festa della birra di Carpi, che c'era allora, l'ingresso era gratuito, ma c'erano 11.000 persone, un'esperienza che poi nella mia vita non ho avuto mai più. Ecco. 11.000 persone, ma ragazzi, ma sì, sono perché c'era una collinetta tantissime. E tutte le persone si sedevano anche sulla collinetta, e ricordo questa festa della birra di Carpi. Bello, 11.000 persone, grande. Sì, la mia vita non è stata solo densa di episodi amari, ma anche qualche soddisfazione. Amici ascoltatori, allegria! grande allegria. Allora, andiamo a sentire... Allora, ma sei al Bar Jimmy già? Ma no, sono a casa. Infatti non sentivo sbattacchiare di posate. No, adesso sarebbe complicato rivestirmi, perché già nel frattempo mi ero un po' rispogliato. Ma hai detto che non eri in... Sì, ma poi quando sono tornato a casa mi sono un po' rispogliato. Che immagine triste, andiamo subito al traffico. Cogli il momento oltre i limiti del coraggio, ribalta gli schemi e fai volare l'immaginazione, contamina le energie e vivi il futuro cominciando dal palato. Con la pirofila Calloni fai colpo sui tuoi ospiti, ottenendo una lasagna perfetta e tanti altri piatti buoni. Pirofila Calloni, vivi il futuro. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Leonardo, 10-17 minuti, ora dobbiamo dare il benvenuto a un ospite che in realtà torna da noi, non so se lui se lo ricorda, ma insomma, Daniel Zaccaro, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, grazie. Allora, Daniel, è già stato da voi. È già stato da noi. Daniel, come dire, possiamo dire ha già passato due vite? Due vanno bene? O più di due? Sì, adesso la terza. Allora, Daniel Zaccaro ha passato una giovinezza un po' complicata. Quanto tempo trascorsa in carcere, Daniel? Allora, sono stato 3 anni al minorile e poi ho fatto un periodo di 6 mesi a carcere dei maggiorenni. 3 anni al carcere minorile e poi 6 mesi al carcere da maggiorenne. Sì. Perché? Sì. Perché? Perché cosa? Perché tipologia di reati? Come mai? Allora, la prima volta mi hanno arrestato per rapina in banca, avevo 17 anni, 2 giorni prima dei miei 18, tra l'altro. E invece la seconda volta, conseguenza di questo precedente, mi hanno arrestato per una tentata rapina e lesioni. tentata rapina e lesione. Insomma, una vita che tu non hai mai, tra virgolette, rinnegato a dire, cioè con falsi pietismi, ti ha portato, alcuni percorsi della tua vita ti hanno portato evidentemente a compiere quella tipologia di reati, no? Sì, io adesso a distanza di anni dico che sono stato quasi fortunato ad essere arrestato, diciamolo così. Eh sì, perché questo ha permesso di fare un classico percorso che possiamo definire di redenzione, senza ombra di dubbio. Daniel è stato per un po' di tempo nella comunità Kairos di Don Burgio, Don Claudio Burgio, che insomma si occupa anche del recupero di molti ragazzi che hanno passato dei momenti di disagio. La novità è che si è laureato Daniel Zaccaro. C'erano tante persone alla laurea, ce n'era una in particolare che ha fatto molto notizia. Chi era? Era il mio ex pubblico ministero, che è nata l'amicizia per tanti motivi, che ho invitato e che lei ha accettato molto volentieri di venire a assistere alla mia proclamazione, quindi è stata una bella cosa, ecco. Cioè il pubblico ministero della giustizia minorile che ha perseguito i reati, insomma, in aula, e che ti ha portato prima in carcere, che poi non ti ha mai abbandonato, ha seguito tutto il percorso e adesso è venuta a festeggiare la laurea. Hai avuto un momento di tensione quando c'era il pubblico ministero, oppure eri tranquillo, magari pensavi un'altra requisitoria? No, perché in realtà io e lei ormai sono 2 anni che ogni tanto ci incontriamo, giriamo per le scuole, andiamo a parlare ai ragazzi, lei mi invita, se l'ho invitata qualche volta, e quindi già ci conoscevamo, c'era abbastanza confidenza. E quindi è stato molto tranquillo, ecco. Mi ha anche già sentito parlare, quindi in realtà ero sereno, ecco. Tra l'altro, questo punto tu l'hai sottolineato, vai spesso nelle scuole, questo già da un po' di anni, per raccontare ai ragazzi evidentemente di non percorrere le tue stesse orme, no? Di quando da ragazzo hai fatto queste scelte. Diciamo che non vado proprio con l'intenzione di salvare o comunque mettere paura per queste cose. Io semplicemente porto la mia testimonianza, poi sono dell'idea che ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue paure, ognuno ha le sue difficoltà. E quindi mi faccio avanti perché so che, un po' perché ho incontrato della gente che ha speso la propria vita per me, ok? E quindi mi sento anche un po' in debito con anche i ragazzi, con le persone in generale, di dare una mano anch'io agli altri, quelli che magari non hanno mai, cioè io per esempio non ho mai avuto la possibilità di incontrare qualcuno come me che mi spiegasse cosa stava vivendo in un periodo difficile come l'adolescenza, quindi io cerco di farmi avanti, poi ovvio che rimane un incontro in cui tu incontri, tu racconti la tua esperienza e magari qualcuno ci riflette. Tra l'altro aspetta, perché si sente anche un pochino male la linea, proviamo a richiamarlo per perfezionare. Leo, a me questa storia ha molto colpito, certo è finita sui giornali, noi Daniel Zaccaro l'avevamo chiamato già 2 o 3 anni fa, perché questo lo faceva la notizia, è che si è laureato e appunto nel giorno della proclamazione della laurea c'era a fianco la magistrata, il magistrato che l'ha mandato in carcere di fatto. La buona notizia è che la riabilitazione esiste, siccome la maggior parte delle persone pensano che non serva a niente, che chi commette un reato poi è perso per sempre, invece in questo caso c'è, ma infatti volevo chiedere a Daniel, che abbiamo recuperato, eccoci Daniel, quello che volevo chiederti è se ti senti una rarità in questo percorso di recupero, percentualmente, o se invece può davvero accadere spesso questo recupero? Accade spesso, io sono in contatto con tanti ragazzi che hanno la mia storia, che hanno la mia età e che hanno avuto un percorso simile al mio. Alcuni non è che fanno molto clamore, tante volte mi dicono: Daniel, ma perché tu vai in giro così, o comunque fai conoscere la tua storia, alla fine non dovresti dimostrare niente a nessuno. Invece io sono dell'idea che comunque qualche storia va condivisa, anche perché poi è facile con l'opinione pubblica, con tanti ragazzi che poi non ci credono, tanti adulti che non ci credono, portare la mia storia magari può essere di aiuto, può essere d'esempio per qualcuno, quindi però non penso che sia una rarità, ecco. Assolutamente, ci sono tanti ragazzi che anzi hanno qualche... Molti hanno anche un percorso migliore del mio. Sì. Molti. La frase bella che hai detto è: ho trovato persone che hanno dedicato la loro vita a cercare di recuperarmi. Non so se ti riferissi alla comunità Kairos, ma in realtà, comunque, ad alcune persone che evidentemente hanno visto qualcosa di positivo in te. E questa è un po' la chiave di volta, insomma, per... Assolutamente sì. Se mi permetti, sì. Una notazione, diciamo, culturale, ecco, io la mia tesi l'ho fatta sul rapporto padre-figlio nell'Odissea fra Ulisse e Telemaco, no? Bene. C'è un pezzo nell'Odissea dove Ulisse, praticamente, mentre è perso nei suoi viaggi, deviato, eccetera, così, non sa più chi è, non sa se è davvero un eroe o se non è uno sconosciuto, se si ricordano di lui. In realtà lui non è che si impone, comunque emerge in autonomia da solo e quindi cede. No, praticamente mentre sente raccontare la sua storia, lui si commuove e lì capisce che è importante. Quindi io l'ho usata anche questa cosa qua un po' per me, perché sono gli altri che devo riconoscere, sono gli altri che ti valorizzano, vedono sì. Le cose belle, le cose buone che ci sono in te. E quindi sì, assolutamente, grazie agli altri, da solo non ce la si fa mai, non in generale, mai. Per un qualsiasi persona nella vita, chi pensa di farcela da solo ha già fallito in partenza. È bella ma questa. Io senza voler essere invadente, ma avrei una domanda. La cosa che ti ha portato a fare la rapina in banca inizialmente, quando avevi solo 17 anni, sono stati problemi economici o situazioni di altro tipo? Ma sai, i problemi economici, io non è che mancava da mangiare a casa, questo mai. È ovvio che per un ragazzo di periferia di Milano, sono cresciuto comunque in un ambiente abbastanza difficile o povero di cultura, di valori, eccetera. L'unica possibilità per farsi riconoscere o per emergere, per essere qualcuno, e dipendeva da quello che possedevi, da quello che avevi, no? Cioè tu eri un figo se avevi i soldi, ok? Questo era, e che non è che molto lontano l'idea comune di tante persone, solo che da me nel mio quartiere con gli adulti, ecco, quelli fra virgolette sbagliati che ho conosciuto, lo strumento per arrivare a essere qualcuno erano i soldi, e quindi era anche quasi legittimo farlo nel mio quartiere, no? Perciò ho incominciato per questo motivo, per essere riconosciuto, per essere uno in gamba, dovevo fare quelle cose, se no mi cagava nessuno, in poche parole. Per avere un ruolo nel quartiere, esatto, nella esatto. Compagnia in cui eri cresciuto. Sì, diciamo che sei stato poi ripagato dopo da incontri di altro tipo, ecco. Sì, è vero, questo sì. Quello è stato un po' la mia fortuna, L'unica capacità che secondo me ho avuto, l'unica che mi riconosco davvero, è stata quella di fidarmi. Questa è stata, perché tanti ragazzi hanno la possibilità e hanno l'opportunità di incontrare degli adulti che vogliono aiutarli, che ci tengono a loro, che si mettono in gioco. Però tanti fanno molta fatica a fidarsi. Ecco, cioè, perché appunto il passo in più, Daniel, secondo me, è quello di dire anche altre persone che magari sbagliano poi incontrano qualcuno, come dici tu, però magari decidono di persistere nella loro vita, decidono, come hai fatto tu il discorso, di dire ma è più bello, è più rischioso, ma è più bello cercare i soldi facili, è più bello continuare così in una vita un po' sbandata. Ci vuole... Sì. È un po' l'idea del tutto e subito, no? Esatto, ci vuole il passo personale di dire no, decido di fidarmi, ecco, tu hai usato questa parola. Esatto, quello è tutto, ecco, quello è quello che cerco di trasmettere soprattutto ai ragazzi che vado a parlare. Non è tanto credere in cambiamento pensando delle cose strane o difficili da fare, è solo una questione di fidarsi. Poi è normale che fidarsi non significa fidarsi di tutti. Ma tu lo senti quando una persona sta puntando su di te, vuole investire su di te e vuole davvero aiutarti. Alcuni hanno molta paura di darsi, perché un po' sono stati fregati nella loro vita. Tanti ragazzi che commettono le cose che ho commesso io hanno passato un'infanzia che è molto difficile, ma qua andiamo su cose molto psicologiche. Mm-hmm. Però al di là di questo, cioè, fanno molta fatica a fidarsi, perché non vedono possibilità per realizzarsi nelle relazioni. Guarda, lo vedono in altro. Daniel, nel salutarti ti girerei una domanda, perché è una domanda particolare, perché viene da Francesco, che si firma come padre di un ragazzo ora al Beccaria. Per chi non lo sapesse, il Beccaria è il carcere minorile di Milano, e chiede questo Francesco: vorrei chiedere a Davide cosa pensa del sostegno psichiatrico del carcere minorile. Molti ragazzi hanno questi problemi che poi portano in carcere. Forse Davide non ha avuto problematiche psicologiche, cosa che lo ha aiutato nel suo percorso. Sono assistiti, sono aiutati per chi ha... Sì. La psichiatria è diversa dalla psicologia, però in realtà ci sono gli psicologi. Un rapporto di questo mi ha salvato con la mia psicologa, quindi assolutamente sì, la psicologia ti serve per darti gli strumenti per conoscere te stesso. Quindi c'è, e c'è nel carcere, certo che c'è, ti segue. Ti arriva anche un saluto da un'educatrice professionale che conosce Don Claudio Burgio e dice: Daniel, sei speranza per tutti, e quindi insomma continua. Bene. Visto che l'abbraccio della PM alla tua laurea è l'abbraccio di un'intera città, il mondo che si rincontra e ha fiducia. Beh, questo sì, perché senza glorificare, e cosa che Daniel non ha mai fatto, anche il suo passato eccetera, si può sbagliare nella vita e si può anche, come dire, cambiare strada. E Daniel Zaccaro ne è l'incarnazione, visto che va sempre nelle scuole. So che porti in giro anche nelle scuole anche i tuoi vecchi compagni, con i quali non hai fatto delle cose molto molto belle, no? Ogni tanto vengono con me anche i ragazzi che adesso sono con me in comunità, perché io faccio l'educatore, ogni tanto li porto in giro a parlare, così serve sempre un confronto, ecco. Certo. Almeno poi la possibilità di tirar fuori le cose. Va bene. C'è già un punto. Grazie Daniel, anche Gabriella dice: continua a portare il tuo percorso nelle scuole, almeno qualcosa di buono viene fatto. Sono messaggi ascoltatori, ascoltatrici anonimi che ti salutano. Ti ringraziamo anche noi, caro Daniel Zaccaro, per questa testimonianza. Caro Leonardo, qui tra poco ci sarà ospite da noi, appunto, Lorena Bisighini. La voce. però adesso vedo davanti a me un uomo un po' frastornato. Ecco. Questa testimonianza avuta Aurora dovrebbe essere interessante anche per il signor Meazza. Sì, Mauro tra l'altro fa sapere che se vuoi un po' dell'elisir del dottor Meazza, appunto, per la tua para influenza che ti costringe a casa, no, ma ormai è sdoganata Mauro, non dice neanche di avere la para influenza. Io dico solo che Mauro Meazza, a forza di diffondere questo elisir del dottor Meazza che risolve ogni problema, dovrebbe stare attento, perché non è proprio una cosa legale, però veda lui, insomma. Va bene, caro Leo, sai perché hai avuto 11.000 persone a Carpi? Ci scrive l'ascolto, perché c'era la birra. Era quella la chiave. Questo è vero, lo so bene, non mi illudevo di altro, lo so perfettamente. Era la festa della birra, era quello, la birra. Certo. Infatti io da allora vado sempre in giro con delle casse di birra sperando che venga più gente. Va bene, borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Riguardo alla rivendicazione delle suore, mi viene in mente una cosa che mi dissero anni fa, quando in un'altra vita studiavo da prete. Mi dicevano: vieni a lavorare per il Signore. Lo stipendio non è un granché, ma la pensione è roba dell'altro mondo. Caspita Leonardo, sulla collinetta hai per caso fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Buongiorno Manera, visto che io dovrei venire a vedere il tuo prossimo spettacolo in teoria, mi potresti fare qualche anteprima di un tuo spettacolo, così decido o no se buttare soldi? Siamo a questo, siamo a questo, caro Leonardo. Non so cosa vuol dire adesso. Devo difendere Leonardo. Cosa vuol dire l'anteprima dello spettacolo? Cioè... No, ma io penso che non verrà, perché già uno che viene con questo mood, con questo stato d'animo negativo, sicuramente sarebbe un pessimo spettatore. Quindi mi auguro che non venga, stia a casa sua a guardare il Grande Fratello VIP, maledetto cane. Eccolo, no, lo sapevo che poi partiva così. Magari è uno che paga, ma è disposto anche a pagare. Figurati se paga, cercherà dei biglietti omaggio per venire solo a criticare, perché sono quelli che hanno i biglietti omaggio che poi criticano di più. Se estrai del denaro e paghi, vai per divertirti, invece se vai gratuitamente sei lì a critichi, maledetto. Basta, mando le lettere minatorie a casa sua. Pubblico di merda, eccolo, no, basta. Pubblico di merda, basta, ecco. Leonardo, voi poi vi voi chiedete perché in alcuni luoghi la gente fa fatica ad essere convinta a pagare per andare a vedere il suo spettacolo. Allora, caro Leonardo, tu a San Valentino sei rimasto colpito da questo annuncio in metropolitana milanese, sei rimasto colpito, sei rimasto stupido. Lorena Bisighini, eccola, sì, perché ha proprio cambiato voce, proprio il tono di voce è cambiato da quello asettico e professionale, è diventato molto più così, empatico. Come era San prima. Valentino. Lorena Bisighini, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccola qua, la voce, chi va a Milano sui mezzi pubblici, sulla TM, sulla metropolitana, è abituata ad ascoltarla, certo, a dire altre cose, no? Più professionali, appunto, tipo le fermate, gli annunci. Adesso dobbiamo fare la classica cosa, la tipologia di annuncio più frequente. No, la tipologia di annuncio è quella classica in cui si dice nome della fermata interscambio con la linea di superficie, per esempio. Stupendo. Ma quante volte ha dovuto dirla? No, basta una volta, due volte, tre volte, e poi dopo viene ripetuta. Dipende, nel senso che quando cambiano gli interscambi bisogna rifare l'annuncio, quindi ogni tanto ci sono piccole modifiche da fare. Però ultimamente ho sentito che ci sono anche annunci di tipo diverso, per esempio quello che invita i viaggiatori a non tenere lo zaino sulle spalle, un invito assolutamente disatteso peraltro, però dove si invita un po' all'educazione. Sì, esatto, abbiamo fatto una campagna, riteniamo che sarebbe buona cosa se la gente ascoltasse, però pazienza, insomma, noi ci proviamo. No, con il sorriso. È vero, quella dello zaino è un problema, perché la gente, sono i due problemi, la gente che si ferma davanti all'entrata, per cui tu vuoi entrare e c'è il muro, ci sono le persone che si fermano davanti all'entrata e non si capisce perché. E poi, sì, poi ho capito io perché in verità. E perché? Perché ho capito perché si fermano. No, perché davanti agli ingressi ci sono le barre che corrono dal soffitto fino a terra . E quindi chi si vuole appoggiare sei più comodo perché puoi guardare il telefono con le mani libere, quindi ti appoggi lì con la schiena, e poi anche tenere lo zaino effettivamente occupa più spazio. Allora c'è la domanda che si fa a mezza Milano, ma magari anche tutti quelli che vengono a Milano: la fermata Gambara o Gambara? Gambara o Gambara? Ci sono dei dibattiti tra gente che si prende a testate tra i milanesi. Lo so. Allora, la fermata Gambara si chiama così perché in superficie c'è Piazza Veronica Gambara, nota poetessa. Veronica Gambara, su questo almeno non dovrebbe esserci dibattito. No, appunto, allora però non è. La fermata è stata intitolata alla poetessa in qualche modo, ottima cosa, tra l'altro. Ma non è che la poetessa fosse Veronica Gambara? No. La poetessa era Veronica Gambara, andate a controllare. Se proprio qualcuno avesse un dubbio, può andare sul dizionario RAI di ortografia e pronuncia e alla voce Gambara troverà Gambara con l'accento sulla prima A. Stupendo. Già gli ascoltatori dicono: mi sembra di essere a Pagano, no? Perché giustamente gli ascoltatori sentono Lorena Bisighini e si collocano dove in genere sentono la voce di Lorena Bisighini, ma in un'altra forma e attraverso un annuncio. Lei, Lorena, ha studiato dizione per fare questo lavoro. Qual è stato il suo percorso? Io ho iniziato a fare teatro molti anni fa, ho 57 anni. diciamo che ho iniziato a 20 e ho iniziato subito con l'addizione. Ai miei tempi si faceva subito addizione, quindi non si poteva andare avanti senza, diciamo. Sì, non è, no, non è come adesso, non è come adesso. Però ho letto, ho letto, se non sbaglio, sul giornale che è anche figlia di una persona che ha lavorato. Sì, esatto, mio padre era un conducente di autobus. Lavorava in ATM e quindi, ma forse in qualche modo era scritto nel mio destino che finissi a lavorare anch'io in azienda. È stupendo. Ma adesso continua anche a fare teatro oppure solo... Ma secondo me, se qualcuno inizia a fare teatro è impossibile smettere. Il teatro è una grande passione assoluta per la vita, non si può smettere mai. Però vuoi mettere Gambara, cioè la fermata di Gambara. Questa è la fermata per eccellenza, sì. Diciamo. Sì, no, ma intanto abbiamo chiarito, guardi che adesso, senza scherzi, ci sono migliaia di milanesi che ora avranno chiarito che si dice Gambara. Effettivamente anch'io avrei detto Gambara, Gambara forse Manera, dice... No, anch'io ho sempre detto Gambara. Ma voi siete liberi di fare gli annunci come preferito o poi c'è qualcuno che sovraintende? Nel senso, potete dare un tono più o meno allegro, più o meno giocoso e decidete voi oppure avete delle regole da osservare? Abbiamo delle regole, nel senso che un annuncio, soprattutto a bordo treno, non può essere giocoso più di tanto. Cioè Manera vorrebbe, siamo a Loreto! Io preferirei così. Interscambio, linea 1, linea 2! Sarebbe molto carino, però forse non così chiaro. Diciamo. Poi quando vi avvicinate a casa di Manera siamo a Udine, amarezza subito nel momento in cui vi avvicinate a casa di Manera. Udine è una fermata. Alessandro, lei essendo esperta di dizione ti ha ripreso perché tu hai detto amarezza con la E aperta, invece è amarezza con la E chiusa, amarezza. Con l'accento acuto e non grave come l'hai detto tu, giusto Lorena? Esatto. Vabbè, ma insomma è giusto se mi riprende la voce di... No, ma perché uno dice la fermata perecotto? Precotto. Uno ci dice da dove deriva la fermata perecotto. Perecotto non esiste. Vabbè, cara Lorena Bisighini, ma com'era l'annuncio, Leonardo, di San Valentino? Te lo ricordi ancora? O... È cambiato il tono, è diventato più sorridente. Ma se lo ricorda a memoria, Lorena? Era un augurio per tutte le coppie innamorate, certo. Quelli che non erano innamorati hanno vissuto l'annuncio con una amarezza profonda. Lorena, se lo ricorda a memoria quell'annuncio? No, però ricordo che era un buon San Valentino a tutti gli innamorati. Beh, una cosa del genere. Stupendo. E Leonardo dice che alcuni evidentemente i non innamorati hanno detto... Hanno sbottato. Va bene, ringraziamo Lorena Bisighini, la voce che tutti quanti possono sentire sulla metropolitana di Milano per gli annunci. Fatti non alla maniera, siamo a Loreto. Tu come lo faresti l'annuncio? Non so, arrivi all'otto ogni giorno, come arrivi? L'otto dove c'è? L'ho detto, come le fa Germano Lanzone quando annuncia i giocatori del Milan. Poi l'otto è la fermata dove c'è lo stadio, quindi si potrebbe fare. E invece un annuncio amaro tipo a Villa San Giovanni, come lo faresti? Anche oggi siamo qui a Villa San Giovanni. Scendete se non avete niente di meglio da fare. Una cosa così. Va bene, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, ragazzi, signori, vorrei dirvi che siete tutti e due super simpatici. Sì. E poi siete anche un po' affascinanti. E non lo so cosa volete di più. Non lo so, un po' affascinanti, siamo un po' affascinanti. Un aumento, chiediamo un aumento. Ecco, un aumento, quello non sarebbe male. Allora, a Mosca, in metropolitana, le fermate vengono annunciate da voci di attori famosi, ci scrive un ascoltatore. Non lo so questo. Intanto so che è tornato con noi il mitico ex imprenditore, ora clown per bambini, Neronello. Buongiorno. L'amico dei bambini, yup. Certo. Buongiorno a tutti, cari buongiorno amici di Radio 24. Come ben sapete, prima avevo un altro lavoro, ero titolare di un'agenzia di pompe funebri, agenzia Il Trapasso Felice. Ovviamente era felice non tanto per il decuius, ma per i parenti, nel caso in cui ereditassero una grossa eredità. E devo dire che in quei casi non ho mai visto parenti particolarmente tristi, infelici. Le uniche volte in cui ho visto parenti infelici era quando il decuius, ovvero il trapassato, non era nemmeno dotato del denaro necessario per pagare le esequie. In quel caso dovevano sborsare tutto i familiari e le lacrime andavano ad ombreggiare i loro visi. Noi cercavamo anche di rendere meno doloroso il trapasso, proponendo anche qualche bara personalizzata. Per esempio, sulla bara di un negoziante abbiamo scritto «Non torno subito». Sulla bara... che bella ironia. Qualche motto di spirito. Certo. Sulla bara di un cuoco, di una mensa, quindi un cuoco, diciamo, di basso livello, abbiamo scritto «Adesso insegna agli angeli a fare il soffritto». Ecco, ci divertivamo con questi motti di spirito. Naturalmente non tutti i parenti gradivano, purtroppo la mia agenzia ha dovuto chiudere e mi sono inventato un nuovo lavoro, sono diventato clown per bambini, il clown Neronello, l'amico dei bambini, yup! Quindi arrivo nelle case già truccato da clown e dico subito una bella battuta per mettere di buon umore i bimbi. Per esempio, bimbi, come abbaia un cane che mangia solo cibo proveniente da agricoltura sostenibile? Fa bio, bio, bio, bio. Molto bella. Molto. Come battuta. Guardi, una delle migliori. Proprio. Non tutti i bambini, quei cani maledetti, gradivano, ecco, le mie battute sofisticate. Qualcuno reagiva, qualcuno mi sputava addosso. Allora qualche volta mi vedo costretto a reagire. L'ultima volta l'ho dovuto inseguire per casa brandendo una sega circolare. No, ma... Ma devo dire a mia discolpa che la lama non era più particolarmente affilata, perché l'avevo già usata in precedenza per altri bambini. Comunque a quel punto è intervenuta la madre e mi ha detto «Neronello, lascia stare i bambini, clown Neronello, prendi me». Allora mi sono appartato con la madre in camera da letto dove l'ho ricattata. Le ho detto, se non ridi alle mie battute, tornerò dai bambini, da quei cani maledetti che sono in soggiorno. Ed è stato bellissimo vedere che quella signora rideva a crepapelle per delle battute insostenibili. Ma questo è stato il ricatto del clown Neronello. Il ricattone, vabbè. Allora, finalmente rinfrancato, sono tornato dai bimbi dove ho potuto raccontare una delle mie favole, le favole del clown Neronello. La favola. La favola di Biancaneve e Pollicino. Come Biancaneve e Pollicino? C'era una volta in un paese lontano, lontano, una matrigna che era gelosa di Biancaneve, un gran pezzo di gnocca che ogni giorno diventava più bella. Siccome la matrigna era molto invidiosa e giustamente voleva far fuori Biancaneve, che le sottraeva i migliori manzi del regno, ecco, allora Biancaneve scappò nella foresta, dove un bel giorno incontrò Pollicino, che si era perso. Ma era già molto tempo che Pollicino si era perso, ormai era diventato un uomo fatto e finito, di bell'aspetto, molto dotato. Biancaneve e Pollicino ebbero allora un rapporto completo, soddisfacente per entrambi. La matrigna nel frattempo aveva fatto ricorso ad alcuni interventi di chirurgia estetica, seno, lifting, zigomi. Giunse per caso al castello il principe che cercava la bella addormentata. Non la trovò, ma trovò invece la matrigna che col seno rifatto non era niente male. Ma no. Invece di baciarla fece direttamente l'amore con lei. Allora la matrigna disse allo specchio: «Specchio, specchio delle mie brame, forse non sarò la più bella del reame, ma invece di darmi risposte inutili, procurami del buon Viagra per sostenere il principe». E vissero felici e contenti, tranne Biancaneve e Pollicino, che si sposarono e dovettero passare tutti i fine settimana a far fare i compiti ai loro figli, i sette nani. La morale, cari bambini, è che la giovinezza ha i suoi vantaggi, ma anche l'età avanzata della matrigna, se sei rifatta, trovi un principe del buon Viagra, può anche darle le sue soddisfazioni. Perciò, bimbi, ricordatevi che essere naturali va bene, ma soprattutto una certa età, rifarsi da capo a piedi è necessario. No, ma questo è il messaggio che voglio dare ai bambini quando diventeranno grandi, quando diventeranno vecchi. Adesso sembra tutto bello, ma poi anche voi invecchierete e dovrete rifarvi necessariamente se vorrete avere una vita, diciamo, dignitosa. Caro mago e clown, mago no, ma clown Neronello, ma queste unioni di favole hanno non so che di bizzarro, devo approfondire, ecco. Sono un innovatore, lei sa che l'innovazione crea sempre sconcerto inizialmente, ma come facevo le bare personalizzate mi permetto anche di fare questi intrecci tra favole. Va bene, va bene. Venga a trovarci quando vuole, se incrocia Manera dica e lo convinca a fare una diretta dal bar Jimmy uno di questi giorni. Quando Radio 24 mi fornirà gli strumenti necessari per poterla fare, ovvero una cuffia con quattro auricolari. Perché parli con il clown Neronello? Ma perché sono ancora io il clown Neronello? Ah, ecco, auricolari. Non me ne sono ancora andato. Ah, non sono ancora... Oggi è venerdì, auguriamo un buon oggi fine è lunedì, settimana a tutti. Per la verità è lunedì. Peccato. Mi aspettavo due giorni di riposo completo e totale senza dover tornare in quell'atmosfera plumbea rappresentata dalla radio. No, invece guardi, è appena iniziata la settimana, la attenderemo domani. Lei e Manera qui negli studi di Via Monterosa, la fermata Lotto. Vedremo Lotto. Se sarà possibile raggiungere i vostri studi plumbei. Va bene, intanto noi la salutiamo, a domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Uno, nessuno.